Il cuore del disegno di legge è questo: possono costruire luoghi di culto sono le religioni che hanno stipulato con lo Stato, ai sensi della Costituzione, un accordo. Visto che la religione islamica non l'ha stipulato, insomma, è letta così. Se passa questa legge, le moschee non potrebbero essere costruite per legge in Italia, no, senatore? È la via giusta? Non esattamente, nel senso che noi dobbiamo distinguere tra le confessioni religiose che hanno stipulato un'intesa con lo Stato, e allora la materia della costruzione degli edifici di culto è già disciplinata, sì, all'interno di questa intesa, dalle altre che ovviamente, non avendo stipulato un'intesa, non hanno alcun criterio a cui attenersi per la realizzazione di nuovi edifici di culto. Però le altre, quando si dice le altre, si pensa soprattutto a una religione. Lei ovviamente anche, la principale confessione religiosa che oggi non ha una intesa con lo Stato è ovviamente la confessione islamica, ed è anche su questo che noi interveniamo con questo progetto di legge, perché è assurdo che ci sia questa situazione di limbo, di mancanza di regole, per le quali poi dopo ovviamente ciascuno si comporta a modo proprio. Prima lei ha parlato di due moschee, ma in realtà poi i centri culturali islamici sono tantissimi in questo paese. Sì, certo, due sono quelle ufficiali, cioè riconosciute come moschee. Esattamente, due sono le ufficiali. Noi chiediamo appunto che si riconduca anche questa materia all'ufficialità, e che quindi non venga affidata a centri culturali di cui non conosciamo nulla, i cui statuti non conosciamo, e dunque anche pericolosi anche sotto profilo della sicurezza. Infatti, insomma, leggo le cronache giornalistiche sono piene. Leggo dalla presentazione della sua legge: si alimenta il fondato sospetto che spesso la moschea è anche un luogo militare. Le cronache quotidiane sono piene di fatti raccapriccianti. L'aspetto militaristico di una religione che vede nella moschea il proprio centro di aggregazione ci obbliga a promulgare norme di legge. E vabbè, insomma, questa è la spiegazione del perché ha presentato questo disegno di legge. Addirittura, insomma, come luoghi militari, senatore. Le moschee lo sono non solo luoghi di culto e di preghiera, ma sono anche luoghi sociali, politici e anche di militari, nel senso che ovviamente all'interno di alcune moschee o centri culturali islamici, forse è meglio dire, si sono svolte delle attività collaterali al terrorismo di matrice islamica. Questo è noto a tutti, le cronache dei giornali riportano episodi chiarissimi.